Claudio. Oh, va. Guarda un po', questo è normale. Sì, molto meglio che normale. Allora, nel primo pubblicato nel senso che è per la batteria. Ecco che lo accendo, no? Vediamo un po' se questo va a una funzione. Adesso ho isolato. Diciamo che solleva il segnale, ma la radio non cambia. Molto meglio il microfono normale, colorato, un po' strana la voce. Adesso è tutto normale. Adesso non è normale il microfono questo qua. Solo che l'ho spinto. Conviene usare il microfono normale allora. Ok. Benissimo, Cla. Ti ringrazio e scusa se ho disturbato. Scendiamo più tardi, continuo le passioni. No, io sono sempre qua sul canale 10. Mi sto portando, mi sembrava Natalina. Va bene, ciao Bacchia del Plus. Caspita, c'era il baracchino acceso, ma io ieri notte avrei giurato di averlo spento, invece probabilmente è rimasto acceso tutta la notte. Ero in camera, sentivo questi bip, no? Bip, bip, come se fosse un bip del baracchino. Infatti era acceso, dai. Eia. Comunque, di questi tuoni fulmini che dovevo fare non ha fatto bene un bel niente, dai. Non è andata buona giornata, ha fatto quest'acqua così, questa pioggia, non serve a niente, non lo so, cosa vuol dire. Una pioggerina proprio di chicchia. Sì, domani la nuova, il meteo della nuova ha dato bel tempo, e questo cos'è? Forse il giorno del sole, quindi noi ci andiamo a Platamona. C'è un po' di gente, ci prendiamo un caffè, così, quello che capita, insomma, che sia però me, perché sempre mamma è imprevedibile, dice, ah, non ho voglia, non ho voglia, mi tocca uscire da solo, capito? Non ti va di male, dice, già hai bisogno di qualcuno. Magari una compagnia femminile, no? Una compagnia femminile. La piscina mi devo fare, però poi non posso più spendere in baracchini né niente, capito? Bisogna campare la piscina. Vabbè. E cosa vuoi fare? Beh, a meno che non trovi una ragazza moderna, finalmente. Di quelle che ogni tanto offri lei, un po' ogni tanto offri tu, capito? Non che va a carico di tutto e per tutto. Bene, bene. Io mi sto guardando video su YouTube, sempre roba tecnologica, eccetera, eccetera, un po' di tutto, dai. Uia, c'ho mal di pancia. Uia. Dicono c'è mal di pancia, cosa ti è successo? Nulla. Ogni tanto può capitare, no? Che c'hai, in base a quello che mangi. Ieri ho mangiato zuppa di ceci e gli effetti si stanno sentendo, dai. Zuppa di ceci. Zuppa di ceci cos'è? Maniera che si è imbarato. No, era zuppa di pasta e ceci, pasta e ceci. Ah, pasta e ceci, allora, vabbè. Ho incentrato questa vita. Ieri non si, non ti sei fatto sentire per niente. Dici che io non ci sono in radio, guarda che ore sono. Sono già qua, mi ha compiuto. Sto facendo un aggiornamento a quell'altro. C'è Facebook, c'è omicidio Fuchs. Meglio così. Sto facendo un aggiornamento. È da un anno che non lo accendo Facebook. Guarda, non ti perdi niente per Facebook. È troppo aperto, meglio una struttura chiusa per soli intimi come WhatsApp, dai. Infatti a me piace più WhatsApp, Facebook no. Facebook deve mettere in piazza video, coso, poi ti criticano. Oh. Vedo che c'è anche il sole, io volevo uscire anche stasera, ma la signora non ne ha voglia. subito, ah no no, io oggi non esco, e accidenti. Purtroppo le ho prestato soldi, capito? 50.000, ma 50 euro le ho prestato per fine mese, no, perché e adesso sono senza soldi, ho capito, non mi posso pigliare manco un caffè. Ne abbiamo 25 oggi, non conosce fare. Siete in due, siete stati in quattro guai. Purtroppo c'è stata una spesa, lavori non previsti, dai. E qua purtroppo ogni tanto si sfascia qualcosa e quindi dobbiamo fare lavori. E quindi si paga a suon di sì, 25, poi l'1 è sabato, il 2 domenica, il 3, ritirerà il 3, capito? Purtroppo c'è sabato e domenica di mezzo, così mi rientrano, vediamo, mi rientrano 70 euro, 70 euro. Non sono molti, ma meglio che non averne. Chi è Bosi? Chi è? È uno che prima non sentiva mai, adesso lo ci sente sempre. E io. Ok, vabbè, adesso è ancora troppo presto. Sono in pigiama, sarei voluto uscire, ma senza soldi dove vado? Anche quello è vero, ha ragione quella amica lì, Marilena, dice, noi eravamo piccoli, ci usciva a divertirci così, i soldi non esistevano nemmeno, dice adesso che siamo grandi, se non hai manco un euro non puoi uscire, non puoi uscire, non ti puoi pigliare un caffè, cosa ne so. Sono diverse le cose da ragazzini, da bambini e da grandi, capito? Prima si giocava e si viveva di gioco, adesso insomma non puoi andare da nessuna parte, vai in un locale, ci vogliono soldi. Vabbè che io posso uscire a farmi un giro così, anche a Plattamona, tanto per vedere l'ambiente, mi sa che farò così, metto il baracchino buono in macchina, non quell'aborto di apparecchio omologato, è l'antenna lunga, mi faccio un giro, non è così, c'è già tardi perché il sole fra poco tramonterà, fra un'oretta sarà già tramontato. quando gli ha mancato Falcone, cazzo, ma ci fate tanti che si segue a guardare, cazzo, allucinato. Eia, un po' sì, però a me non piace uscire senza soldi, tocchiamo ferro, un imprevisto, cosa ne so io, un caro attrezzi da chiamare, tocchiamo sempre ferro. Ascolta, vai a buca di cominciare, vai, fissu Maria, che... Ascolti, ti posi in macchina e ti fa un giretto, tu mi dirai, ci vuole la benzina, ci vuole questo, ma per fare un giro non ci vuole soldi, no? No, la benzina c'è già pure, c'è pure la benzina, pensa, sì, no, ma sai, io quando esco sempre, mi piace pigliarmi una cosa al bar, perché se vado a Plattamona c'è il bar aperto sicuramente, vado lì, cosa vado a fare, il giro dei poveri, a passeggiare, boh, che almeno quello è gratis. Portati il fornellino, la caffettiera, almeno il caffè ti fai, no? Grazie, davvero mi, eh? Già non mancano quelle cose lì, quegli strumenti là, già non mancano, me lo fai. faccio lì, mi porto addirittura il caffè solubile e si scioglie anche l'acqua tiepida, boh, te le immagini. Gira, gli ho trovato l'idea, là, riprendi qua. Ma il tuo figlio che non cammina la pagina da giura, bisogna farla camminare tu. Perfetto, giustamente. Allora, è troppo complicato, adesso glielo spengo. Vabbè, no, non ce la faccio qui. Come ho detto, c'era un bianco, ma devo chiamare. Forse gli ho già detto se funzionava, già funzionato. Luca, buongiorno a tutti. E ti dia una mano di buona, che Dio ti aiuti. Come sta? A mamma. E allora, là. E gli hanno messo un prismecchio. Sembra che sia andato tutto bene. Allora, sono contento. Non manca mai, no? Ho casino, sto qua. Me stanotte, come sono coricato, no? Mi è venuta un extra sistole, ho detto Millo, ci siamo, questa volta ci siamo. Ho sentito anche il cuore battere forte, ho fatto boom, proprio un botto, ho detto Millo, ci siamo. Invece poi ha continuato a battere. Capito? Di solito sono di origine nervosa, però boh, è brutto sentirla perché ti toglie il fiato, è come se si fermasse quasi il cuore. Cioè l'idea è quella, poi non si ferma ovviamente, se no saresti morto. Ma tu di ansia soffri, Marco? Come, Massimiliano? Tu soffri di ansia, di stati di panico, vero? No, più che altro ansia, stati di panico no. Ansia così, ansia per tutto. E quindi sono state già diagnosticate, sono extrasistole di origine nervosa, perché l'elettrocardiogramma è perfetto, capito? Non è una cosa meccanica, è una cosa di origine nervosa, però quando viene, che il cuore batte, tun tun tun, ti viene un attimo di fame d'aria, capito? È brutta sensazione. Senti, fiore di Bach. Bah, poi quella roba... Quelle fesserie di origine naturale, mi, per dormire la notte, altro che camomilla, altro che melatonina, al sedere me l'attacco, mi. Ci vuole la pastiglietta per dormire. No, non è che ci vuole la pastiglietta, anche magari dovresti fare una vita più regolare, nel senso che svegliarti alle 9, alle 10 del mattino, mangiare all'una alle 2 e la sera mangiare alle 8, alle 9. Questa è una vita più o meno regolare, tu invece la fai tutta diversa. Sì, sì, è troppo incasinata la giornata, dovrei uscire di mattina, godermi il sole, andare al centro, mangiare presto, alle 2, non all'una, noi mangiamo, vabbè, alle 2 ci viene meglio. Che ne so, farmi una pennichella di un'ora, ci sia un'ora però non 4 ore. Capito, poi magari mettermi nel baracchino di sera o fare quello che devo fare e poi alle 9 a cenare, come facevamo prima. Noi prima eravamo normali, capito? Da quando è andata in pensione mamma abbiamo orari tutti sballati. E già ci vuole poco comunque. Ti invece ti metti la sveglia e ti alzi. Vedrai che ti alzi oggi domani e poi ritornerà tutto normale. Così è Claudia. Tu alle 7 di sera mangi il pranzo. Sì, e anche molti bene, no? Alle 8 e mezzo di notte non ci mangi. Pranzo? No, pranzo massimo l'una e mezza. Quando siamo tutti a casa, se no loro mangiano l'una, l'una e mezza lo stesso. E io quando arrivo le 2:15. Io da voi che mangiate sotto la vacca, cioè sopra la vacca, non sotto. E non ci vediamo, fa anch'io quello che fai. Ho mangiato per anni col pigiattino io. Poi finalmente eravamo organizzati, quindi quando ero a Portoce perlomeno mangiavo in mensa. Quando ero a Cagliari il primo periodo andavo a casa a mangiare, invece avevo stacco da mezzogiorno a luna. Quindi saltavo la retta della Saras, abitavo lì, avevo tutto pronto, andavo veloce e poi tornavo in stabilimento. Adesso invece non c'è più questo problema, da 25 anni a questa parte. Capito? Però è sempre una rottura di scatole, mangiare tardi da solo, capito? Ehi, vabbè, però, cosa devi fare? Marco, tu che lavoro fai? Che lavoro fa Marco? Niente, che lavoro fa? Niente fa, io non... tutto affuscato. E gli è sembrato tutto fischi. E via. È tutto un fruscio. KK positivo e caparrocchio. Ma con me non ci sei più. Adesso che l'ho chiamato la mamma. Va bene, va bene. Ok. Chi era quella fischia? Non ho capito. Mi ha già compreso, l'ha mortata, io avrei fa vita però. Elio ti ho detto, Elio. Ehi, grazie la salmata, la fischia. Io sono calmo io. Non mi sono rotto. Sento il fischi, sì. D'accordo, dieci, ci sentiamo dopo. Ehi, Massimiliano, sono qua. Ehi, un appoggio acqua. Passa bene il microfono. Ehi, strano, non è che abbia piovuto così tanto. Dove? A casa di chi mia? Non capisco casino di che cosa. Io sono uscito stamattina. Sono cambiato le segni, lui che stava piovendo, ma sono rientrato a casa. In che senso sta facendo cadere? Di che genere? Cosa c'è Torre Scaglieri? Sono su Cagliari, blu. Non sono informato, non vedo. Chi è avanti? Ma c'è chi vai a bordo, oggi è Elio, Elio, cosa vai? E non lascia il suo microfono e vai dentro una chiesa. E oggi è tutta contusione, Giuci. Sì, ma se deve giocare Cagliari Sorso, non possono fare casino a Sorso, lo c'entra già, sai? Io c'ho l'internet acceso, non vedo niente. Non so, vedo. Non so che dirti. Sulla nuova Sardegna. La nuova Sardegna di oggi, quindi quando è successo? Ieri? Non so se siano arrivati stamattina o ieri sera, non me lo ricordo. Ciao Elio, mi ero allontanato perché mi devo fare la medicazione a questa cosa solita mia. Il danno che faccio io, Flavio, quindi mi devo fare la medicazione, dai. Sentiamo più tardi. Aia, c'è una mania mia proprio. Sì. Sono delinquenti comuni, non sono tifosi. Delinquenti comuni sono così. Che vuoi ti dica? Tipo Genova, mi, tipo G8, tipo Scuola Diaz li avevi aspettati al treno, capito? Con i celerini, a dargli una sussa. Io come sto? Dove ti dica? No, mi ce la faccio su Facebook, io stavo trovando appunto. L'ho acceso un po' però. Quelli che c'ho io, in quei pochi che c'ho io, non hanno detto niente. Davvero? Via, davvero. Sì, ce lo vuoi vedere Claudio, vai sulla nuova Sardegna online, no? Alla Sardegna c'è, dovrebbe essere la prima notizia che compare, ma solita tifoseria, capito, che con la scusa del calcio spaccano tutto, sono delinquenti e boh. Il vero sportivo non spacca tutto, capito? Sì, ma c'è facile un capo, vedi, in basso armati, in campagna, detto io, per il chiarista. Non connesso, non siamo connessi di nuovo. Claudio, faccio una pausa, dai, vado a farmi questa benedetta medicazione, dai, se no non esco più. Va bene, Marco, va bene. Vedo quanto c'è Marino. Magari lo rubano lo casco. Addirittura, conducente, non sento niente, no? Non ho sentito niente. Pure amichevole. E allora io. Già andava. Non sapevo niente. Ho acceso la sua computer per vedere le mail, c'ho l'altro acceso, quello del card, quello l'ho spento, quello internet l'ho spento, infatti, non ho fatto niente. Vabbè. sì, allora sì. È tanto. È tanto, siamo qua. Benissimo, benissimo. Aidia, lo senti? Lì c'era Marco. Anche a farsi la medicazione. Al Gabu. E poi ci dovrebbe essere Massimiliano, che era in quel Rix, sto facendo cosa. Massimiliano, non c'è, non c'è. Vedi cosa gli fanno. ci vuole gente tipo i celerini, quelli proprio che picchiano forte, i vicini urbani che cioè, pigliano colpi. Ah, mi sono messo la benda, qua mi sono medicato, ho messo la, come si chiama, connettivina, perché il cicatrene non lo vendono più. Era ottimo il cicatrene, aveva anche un po' di antistaminico. Adesso c'è questa connettivina che non mi dice nulla, serve un po' allo stesso a chiudere le piccole ferite, no? Che quello è il sostituto, non fanno più cicatrene, lo sai, né in polvere né in crema, non so perché. Ci sono cose equivalenti, però il cicatrene a me mi piaceva in particolare, non so perché. Perché l'ho usato, lo conoscevo da quando ero piccolo, Non si sa, a meno che non abbiano sospeso la produzione per qualche motivo a noi sconosciuto. Ricordate che sia la benda, perché con la benda respira di più, la ferita si asciuga, mentre col cerotto, c'era un normale cerotto, rimane umidiccia la ferita, capito, la feritina, rimane più umida, invece con la benda prende aria, passa aria, è molto larga l'ho messa, in modo che passi aria e si asciuga, si cicatrizza. Se no mi viene Natalino, già lo sa lui però cosa deve fare, vero Natalino? Mi taglia le palle. Natalino. Mia Marco che ha un problema, cicatrene, vai tu, già lo sai cosa hai fatto, cosa devi fare, tu hai fatto primo soccorso. Oi. Bene, ho deciso che non uscirò, non a giugana, c'ho la macchina, sto a casa, me la conservo così per domani che andiamo a Platamona. Questo ce l'ho già sotto, se no poi non è troppo. Bene, ciao Natalino, ben sentito. Chi altri c'è? Chi altri è entrato in rotta? Ho sentito Eugenio a urla prima. L'ho sentito anch'io, anche il suo ecco, tutto a diguglio, ho capito cosa sta facendo. Attento Eugenio. Eugenio. Faceva Massimiliano, si è allontanato un attimo, vediamo se è rientrato. Massimiliano. Forse stavo adattando quel microfono, il DM1000 a quell'apparato nuovo. Se lo mando un messaggio a vedere. Non c'è Fendi. Ma bene. E poi me ne sono pentito di non avergli adatto. Cioè, non so manco io cosa devo fare, però poi ho detto già glielo potevo dare, e ormai ce l'ha nuovo, dai, è risolto. Mi ci vengo anch'io, mamma mia come siete, cazzo. Rispondete un bicchiere d'acqua, come ti sei d'accordo, punto e basta, no? E vabbè, ormai ce l'ha, ma io ho sempre decido così, poi colà, poi così, poi colà, non so manco io cosa voglio e cosa. Vabbè, ormai è fatta, dai, adesso ce l'ha, è a posto. Ce l'ha sì, è contento, funziona bene, provetto. Adesso non so, sta mettendo il microfono, l'ho sentito poco fa, ma non aggiungo preso nulla, era tutto a diluglio. C'era l'effetto ecco. Guarda, il DM1000 andava bene anche senza effetto eco per me, anche allo stesso prezzo l'avrei pagato senza effetto eco, non mi interessa a me. Ogni tanto per giocare si fa, ma pochi secondi così, poi, come dicevano gli inglesi, no? L'eco, eco is for Italians, no, al baracchino, eco is for Italians, per gli italiani, no, come dire che sono così, un po' giullari, no? Aperto, scrivendo sì, c'è la Thailandia ha fatto stamattina, l'ho segnata, vedete me come sto aggiornando il logo. Ah, bello, bello, 20 metri. Nega, scrivi. Ma il log tu ce l'hai elettronico? Cioè lo fai sul computer così, eh? Cioè alla fine non ne usa più nessuno più di taccuino, no? A penna, scrivere a penna, o sì. Ma non esiste più. Non esiste più? Cioè tutto al computer, mamma mia, che palle. Vabbè, giustamente il progresso. Però per chi è in macchina o si usa un taccuino, collegamenti. E lo so, ma è tutto così. Eia. Ok, vediamo se entra poi qualcun altro. Però non mi sto guardando video didattici su alcune cose, dai, che c'ho la DSL attaccata, il wifi attaccato, mi guardo un po' di roba, poi entro, dai, quando si riempie un po' più la ruota, dai. Avete ragione, va bene, sono ancora là. No, che poi niente, addirittura ti seduce e ti abbandona. No, che poi entrerà Gianni, entrerà un'altra gente, dai, adesso ancora presto, c'è il sole, io sono da Tappignara, devo entrare a modulare col buio. Il portabile, il portatile, ma per cosa? Per il PMR? Ah, paghissu, cos'è questo odore? Ma il vicino ha attaccato il camino, sta arrivando il profumo di legna bruciata. Ok, mi porto il portatile carico, se ci sei in zona. Mi porto anche il baracchino. Domani lo porto il baracchino con l'antenna lunga e il baracchino buono, anche non baracchini della mutua. Si capite? E se mi viene in mente mi porto anche il lineare, te ne immagini? Mettiti una base magnetica, fai come me, perché a lasciarlo fisso non fa il baracchino, ti lo butti lì, poi decidi tu, dai. Io lascio solo un omologato che vale poco e niente in macchina, lui se lo ruba, pazienza, però se uso apparecchi buoni poi li tolgo, capito, non li lascio in macchina. Ehi, anche se lo copri con una giacca, un golfo, poi entrano in macchina, lo vedono e se lo portano via. Deia, credo che sia un autoradio, poi la vendono al pidocchio lì. Ma se uno trova un baracchino, per esempio, se uno vede il proprio baracchino che è stato rubato in vendita dal pidocchio o da Portobello, cosa deve fare? Spiegare la situazione, riprenderselo o chiamare la polizia? Perché il pidocchio può dire no, questo me l'hanno portato e non è il tuo, non te le do, capito, può dire. Chiama la polizia, così è. Solo che poi lo arrestano per ricettazione, lo denunciano per ricettazione al pidocchio. Perché il numero di serie è attaccato all'adesivo, il numero di serie, che segno li puoi fare? Tu sai cos'è? Lui non te lo fa mica aprire l'apparato. Quando tu lo vedi dal pidocchio, però mica te lo fa aprire a cercare il segno, no? È un casino, Casino. Gli fai vedere la scatola, la polizia, gli fai vedere lo scontrino, tutto gli fai vedere. È sempre un casino poi. Sì, no, piuttosto gli scrivo una cosa col pennarello che non vedi nulla, lo vedi solo con gli ultravioletti, capito? Quelli lettori di banconote, mi per vedere se sono false, glielo passi dietro dove è scritto la roba e compare la scritta, poi vedi il tuo nome, il tuo codice fiscale, gli scritti viaggi. Eia. Conosco un ragazzo che fa le incisioni sul metallo, io gli potrei portare un coperchio interno, una parte esterna, non so, e fargli incidere, tipo codice fiscale, o quello che voglio io, dai. Quindi? Cioè, se tu vedessi un tuo apparato che ti hanno fregato dal pidocchio, come agiresti? Dici che il tuo gli spieghi la situazione o chiami direttamente la polizia? Ciao, a dopo, ci sentiamo dopo, dai. Ciao, ci sentiamo dopo. Beh, non c'è più nessuno qua. lavoro. L'inizio della Ferrandia, 20 metri, lontano 20 metri, ma una schiggia. Adesso sto guardando, basta, non c'è niente, mi interessi per il momento. Esce l'efficiente, oggi è 26, non 27, beh, così ho fatto 27. Giovedì, venerdì, sono fermato un minuto. Va bene, il problema è alla destra, a sinistra, mettendo a posto tutte le cose che mi hanno lasciato da fare. Domani faccio solo un giro di controllo, poi lunedì si rinizia di nuovo tutta la settimana. Mi sa che non sia nulla. Allucinante, proprio quando non c'è il gatto il topo salta. No, non lo accetto. Non deve fare il suo, perché tutti siamo pagati per lavorare, non per giocare o per prendere in giro. Ma questo è da tutte le parti, è da tutte le parti. Ci sono i furbetti di turno. Ora vedi che stanno ripetendo, se vado in dettaglio, se le cose non sono tutte a posto, ordinate, purtroppo. E che ci vuoi va? Che ci vuoi va? Così è. Ah, avrebbe più detto, dun dun dun, arrangia di tu, hai fatto bene, arrangia di tu, dun dun dun, arrangia di tu, e sciure. Di queste cose se ne stanno sentendo troppo. Purtroppo è così, c'è quello che non mi ha nulla e quindi ci lungo all'altro solo. Aspetta, sto guardando il video, sto guardando, aspetta lì. Cinque, sto guardando su Facebook e mia figlia, questo mio gallino. L'hai guardato anche tu? Allucinante. Cosa ha detto Natalia? Io sono qua. Cimiglia, ci sei? Sei rientrato? Ciao Giuseppe, buonasera, ben sentito. Aspetta un attimo, stiamo guardando un video. Va bene. No, perché non sta parlando solo. abbandonata lì. Di che cosa si trattasse, dai? Io, io. Lo senti a Sandro, Natali? Lo senti a Natalino, sa? No, negativo. Negativo Natalino. Se Natalino mi ascolta, ciao Natalino, con la buonasera. Sandro qui, Porto Torres, cambio passo. Piccolino lui ti sente. Arrivi a Sorso, da Franco, arrivi da Eugenio, ti sente, lo sente Eugenio, basso ma lo sente, tu sa, non riesci a sentirlo. Sei troppo giù per lui, capito? Troppo giù, Eugenio è più vicino, quindi riesci a sentirlo. Allora, aspetta un attimino, provo a inserire l'amplificatore d'antenna, dai. Vediamo un attimino. Natalino, vieni avanti. Guarda, ci ascolti, Sandro, di Porto Torres, Cava. Natalino, vai. Pio in sottofondo, Pio in sottofondo. Radio quasi uno, Quasi uno, riesco a tirarti fuori. Buonasera, ciao Natalì. Ehi, ciao Sandro. Ho copiato, dai. Ho copiato che c'è un'antenna di macchina, dai, tutto lì. Va bene. Rimedia, fai qualcosa. Ho sentito qualcosa, qualcuno lì, Alghero. Coro, buonasera, Porto Torres. Chiappa, ciao, buonasera. Chi è lì in Alghero? Giuseppe, che non sente, è Natalino. E avete parlato in due, però Natalino arriva più forte adesso. Stai scendendo più forte, Natalino. Bella anche il sottofondo, ecco, va bene. Chiappa, sì, no, con l'amplificatore in antenna inserito riesco a pizzicarlo un attimino, dai, va bene. Perché arriva anche da Franco, a Sorso, arriva da Massimiliano, lo sente anche Eugenio, basso, ma riesce a tirarlo fuori, capito? Qui sei troppo giù nella vallata del mare. Sì, evidentemente per la mia zona, diciamo, è un po' più negativo, dai, va bene. Ho sentito lì chi era, Giuseppe Nalghero. Non ho capito. Claudio? Ha detto che davvero giungi molto bene, chiarissimo. Ah, ok, dai, va bene Giuseppe, dai. Stiamo facendo riscaldare un po' l'ambiente, tutto lì. E lui praticamente ha portato verso di fronte al mare, nella zona residenziale, capito? Zona residenziale mare, quindi diciamo verso Parai, quella zona lì, dai. No, già, c'è bene. Non prove. C'è quella copertura lì di Monte Alvaro, se no. Se fosse spostato su dalla parte del cimitero lì, quella zona un po' più alta, diciamo, sarebbe arrivato molto più forte, ma c'è un segnalone qua di quasi 9,20, quindi non c'è problema. Bene Meda, avanti Tattalino. Tattalino, cosa stai facendo? Ma Marco Rata Pignara, hai finito di medicarti? Sì, c'è un po' gara che ne avevi oggi. Mi sa che sarò dovuto di te, sciome. Guarda, io ti ho risposto, Rata Pignara, io ti ho risposto. Mi hai fatto che stai dicendo Rata Pignara, che ieri si è alzato alle 8:20, capito? Con la rete. L'ha fatta lo giorno, ha detto, la riserva di scia. Stasera è impegnato con Luci Catrene. Il giubbaletto ce la tocca. Ci aveva grattato lo gabbo di sopra. Allora, sempre manovrendi, ha detto, maneggenti. Cosa devi maneggiare? Magari sta vedendo se ti piace. Ma se non fa manco wipe, non solo di baffi. Se va la wipe, tra un pelo e l'altro è un urodrano. Attento Marco.

scusate, se dove vedi l'importante, e poi quando parli va quasi a 25, penso che segnale di Sassari. Lo senti Natalia, più forte lo senti a passando adesso? Giuseppe, lo senti bene a Sandro? Hai visto? Che non sono solo arrivati bene ad Alghero. Ciao, dai, va bene. Vediamo un attimino. Giuseppe, dammi un rapporto adesso. Ho messo un po' di vitamine, dai. Cos'hai detto, Giuseppe? Voce gracchiante. Togli l'NB, guarda dove c'è scritto NB, toglilo, NB c'è scritto, toglilo, disinseriscilo, toglilo in fuori, tattino in fuori, non serve a niente quello, lascialo disinserito, tattino in fuori, l'hai visto dov'è? NB c'è scritto, NB, mettiti gli occhiali, NB, toglilo in fuori, sotto alla tua destra, dove ci sono gli slider, Mickey Gay, quella roba lì, sotto c'è un tattino, c'è scritto NB. Oh, la modulazione la sta tenendo? Ehi, è fortissima la modulazione, alla grande, non può pesare. Ah, ok, dai, va bene. No, perché evidentemente Giuseppe Nogueiro c'ha l'NB appunto, l'NB inserito, quindi... Sì, c'è quello inserito sicuramente, ma adesso per trovarlo lui ci mette un po' di tempo. L'hai trovato, Giuseppe, questo tattino giù in fondo a destra dove c'è scritto NB? C'è scritto NB1, NB2. Lasciali tutti e due in fuori, non inseriti, tutti e due disinseriti. Sì, giupa. Giuseppe, l'hai disinserito il tattino che ti ho detto, NB1, NB2, li hai tirati in fuori? Allora come fai a sentire a Sandro Gracchiante se è fortissimo? E allora c'è qualcosa tu che hai inserito. Perché qua è senza l'NB, è fortissimo. Con l'NB inserito si un pochino gracchia perché stringe. Capite, è un filtro. Vabbè, comunque, già va bene, dai. Ti ha chiesto un controllo di segnale, non di radio, di segnale, quanto ti sta arrivando, Sandro? Prova, Sha. Ok. Allora. Aspetta un attimino. Ok, Giuseppe, vai, vedi un po'. Sente l'Europa ti arriva. Piero 9, oi mamma mia. Che se non vai 24, non muore fa 25. Guarda, sì, mi si arriva di canteggiare più rum. Oia mamma mia, come sto? Aspetta, guarda, esco un attimino a controllare l'antenna. No, controllati vicini, no, antenna. Ascolta, ma le valvole le avevi lasciate, quindi stanno lavorando bene adesso? Non sono al 100%, dai. Buonasera, a qualcuno dice che l'ho acceso la televisione, mi scusi, eh. Un saluto dalla radio, c'è qua Radio Sandro. Sofra, è 9.25 oggi, 9.20 con picchi a 25, mi arriva in gigante gente di Sassari. Beh, voi siete un tiro di schioppo, ciao fra. E ti ha atteso la televisione? Sandro, stai rovinando a Franco, che... Io ho distruggitore di antenne. Ma questa? Ma guarda, non ci dia da lì, per me lo stesso è un segnalone di quelli pazzeschi, non c'è nessuno che ho mai sentito così forte da prodotto micidiale. Ciao Sandro, buonasera. così per fare riscaldare l'ambiente, siccome abbiamo spaziato un attimino i riscaldamenti, stasera una giornata un po' così, e allora ho detto va, di attaccare i riscaldamenti e facciamo spaziare diversamente. Oh, fra, ma com'è te che dice 5 sono giunto a Farracci a Sassari oggi? Ma io sì, praticamente dove hanno giocato? Alla Torres o lì ad Assosso? Sia d'inverno che d'estate, quest'anno lo preferisce filmare quello versante che è meno incazzato, però è eccezionale quel posto, vale. Non ho capito, no, cosa ha detto Giuseppe. C'è anche Natalino comunque che purtroppo voi non sentite, ok? Però io volevo rilanciare il microfono, quindi Giuseppe, aspetta un attimo, avanti Natalino. Perché hai abbassato il microfono? Segnale sempre nuovo, Natalino, sentivo la modulazione più bassa rispetto a poco fa, eri fortissimo, capito miei. Va bene, va bene. Cosa stavi dicendo, Giuseppe? Ci mancherebbe altro, Giuseppe. Registrato Gianni, buonasera, avanti, compagnia di Natalino, Valerio, Giuseppe D'Alghero, Sandro è appena andato via, poi c'è fatto appignare in quel Rix che non so cosa stia facendo, Massimiliano si è allontanato, vedi te. Buonasera di qua, mi rilancio a Valerio per far girare, dai. Ciao Valerio, come a capo, l'elezione. Cosa già? Cosa ha detto? Non hai l'elezione pronta. Non ho capito cosa hai detto, non ha l'elezione è pronta. Ah Valerio, cosa gli hai detto a Giuseppe? Gianni aveva capito l'erezione, beh, quell'età insomma non è che è pronto. Giuseppe, Giuseppe, oi, oi, oi. Avanti Natalì per salutare a Gianni. Ciao Gianni. Ciao Natalì. Lui mi ha fatto danno, me l'ha buttato una via. Quel grecale, forte era. Forte, forte, forte. Però è ancora attaccato, perché già lo sai che io già avevo attaccato la lenta, quindi è rimasto attaccato alla lenta. Vabbè, ti ho detto quando si decide di fare un po' di manutenzione, capito? Quando Sandro la matta che te ne varia, la matta che te ne varia, ma lì ci vogliono molto attenti. Io quando ce l'avevo avevo dovuto cambiare il contattore, cappagappa. Va bene, ok. E quanto voi c'erano già quando decidi di mandare di fare quel lavoro, si tolgono quei radiali e si mettono i suoi originali. Io non ho fatto altro che gli originali suoi, no? Non penso che faccia, perché ci sono i connettori delle radiali, sono dentro, non so se ce la facciamo. Non lo ricordo come. Cara gara, io ce li ho, quattro. E tra l'altro non sono manco in fibra di vetro, li avevo ordinati in plastica dura, rigida, neri, capito, bellissimi, infatti li volevo cambiare alla mia, e poi ho detto ma li lascio stare, quando si rovinano del tutto li ricambio, capito, belli, perché in fibra poi si demoliscono, questi non demoliscono, sono in plastica, in coso, in PVC nero sono, uguali, originali, originali, evolutivo così, filettatura, si attaccano, anche filettatura, è netto sono, e poi ci va la vettina sotto, capito? Vanno bene, vanno bene, sì Sandro, va bene, va bene, quello l'ho avuto anch'io, l'ho avuto anch'io negli anni che tu sai, pure me ne ero disfatto perché mi arrivavano certi colpi di luce che era una cosa allucinante. Allora ho detto maga me lo vado qua, via via via. Ma allora avete sentito la farattoria di successo quando saltato? Farattorio è il casino, non farattorio, i gagliaritani ci sono tutti afferrati dopo la partita, come già avete voti purtroppo. E così, non so cosa succede adesso. Ma sono stati i sassaresi che hanno attaccato i cagliaritani o che c'è? Non lo so perché non l'ho seguita la verità, non ho seguito niente. Ho visto solo il video su Facebook e basta. E poi non lo so chi è che ha iniziato, cosa è successo, sta fatto che hanno fatto un sacco di danno alla stazione. E in più altri danni alle macchine, a quello, a quell'altro, capito? Perché uno è finito pure a liquidare perché erano tutti armati. avanti, sono venuti già con l'intenzione di fare casino, perché erano tutti armati con bastoni, c'erano i zaini, c'avevano dei bastoni telescopici che si aprivano, hanno fatto un casino di Gesù Cristo. Ma non che non avevi più di buoni piedi, già te lo ricordi che prima li accompagnavano la mascotte e puma sino a andare verso buoni sassari, perché li precipitavano, li prendevano a piedi, a corso, ogni volta che venivano a corso. Ho capito, ma loro sono venuti in pulma, e siccome il treno mi pare che parta alle 7, quindi avevano tutto il tempo per fare casino. Dopo la partita alle 4, non so, così c'è scritto, loro erano lì e quindi non so cosa è successo, sono i sassaresi che hanno attaccato o se sono i cagliaritani, comunque all'uscita sono usciti tutti fuori dalla stazione, hanno fatto un casino, prima hanno demolito mezza stazione, il bar, hanno fatto un casino di Gesù Cristo e poi sono attaccati fuori. Fortunatamente sono arrivate le forze dell'ordine, un po' di pattuglia normale del 113, però poi è arrivata la cosa, il blindato dell'antisommossa, quindi hanno pigliato golpi. Allora io so che praticamente la partita non era stata fatta, dovevano farla, si hanno rispediti a Cagliari, dopo che sia successo in questi stati minuti, si hanno rispediti il treno a Cagliari, allora non hanno fatto fare, manco fare partita, perché sennò qua, lui... E sarà così già, ti ripeto, non si vede niente, ho visto questo filmato su Facebook, ma roba allucinante, hanno demolito mezza stazione e poi un casino nero hanno fatto, ma ho già vestiti di chi. Questo purtroppo è il calcio, questa è la realtà delle cose che possono succedere quando le tifoserie non hanno nessun senso di niente, sono proprio dei cannibali, capito? No, claro, quello lì non è calcio, non è tifoseria, quello lì è essere delinquenti, essere, diciamo, fare casino, basta, rompere tutto, non è certo essere tifosi quello, quello è proprio essere delinquenti e trovare la scusa per la tifoseria per fare queste cose, perché si devono sfogare in qualche modo questa gente qua, ragazzi. Tempisti sono. Tempisti, io. Avanti, Valerio. Beppe, mi istruzioni come papà. Allora. Io. Natalie. Un salutino di passaggio, buonasera. Ui, carissimo. Senza antenna c'è Sabato. Ho detto se sei senza antenna. Perché? Sei Santiago 9. No. Ehi, stai dicendo male. Da 9 a 5, 7. No, ma male, Santiago 7 sei qua, da te già. Allora, da me è partito che era 9.25, poi c'è 9, poi 5. Adesso si è uscito l'ombre 25 di nuovo. No, andando in mare, non lo scatto. No, sono 25 già, forse mi sarei più vicino a te, non lo so. Qua è Santiago 7, 9, 7, 8, 7. Ciao Salvatore, un abbraccio, grazie per averci salutato, vai già. Ciao Salvatore, se ti può consolare, allora mi ha portato la mia. Diciamo regie. Sì, ma sono andato a Futtidini, la chiamata, controlla che sia a posto le direttive a Futtidini. No, io tutto a posto, montaggio ad hoc, antenne ad hoc, tutto ad hoc, cambio, avanti la Tapignara. No. Noi diciamo regie, Natalino. Sei attaccato a lui, non può arrivarti 9, a me arriva 9.15, a te almeno 9.30. A modo che non ci abbia problemi in antenna anche tu. No, ma mi avviso la mia compagina quando scala, sta andando male la quella. A me è arrivato prima la 25, poi 9 e poi 5 di Santiago, da te se arriva qualche cosa. La mia lo stesso, questo per mi stanno a fare radiare o la sapegna. Cosa mi hai chiesto già? Ho detto che a me il vento mi ha buttato il radiale. Oh, ho sentito, ma è rimasto attaccato al nylon, no? Sì, alla lenta, devo andare solo col controllo studio, perché se cade fa danno, perché quelli sono fini e non so che quelli butti. Eia, quello fa più male se arriva in testa. Non ho capito perché avete messo qui la radiale in piedi così. Io avevo cambiato la mantella turbo, avevo messo uguale, precisi identici. Ho preso alluminio vuoto con tutti i suoi tappi, l'avevo fatto, sembrava nuova, stessa misura, stesso diametro, tutto. Stava a chiedermi di già, Trapanardi, se c'era rotto un radiale, Trapanardi, me lo chiedevi, te l'avrei dato io, un radiale nuovo. No, non mi si fidi, Carlo, perché ho avuto da voi già messo le cornacche che mi spezzavano, perché come faccio per il buco per far mettere il volume passante, mi vedi rimanendo anche fino dove c'era il buco, come la cornacca saltava, però non provocava, ma era un cazzo tre. E allora abbiamo messo i piedi, infatti con i piedi non li stavano a me. Ho capito, non so cosa avete fatto, però quante ne manca con i radiali in fibra, me li chiedevi, io ce li ho, qualcuno ce l'ho sempre perché li piantoni me li hanno regalato, me li hanno dato anche uno franco, l'avevo dato, capito? E poi si sono visti i risultati, sempre, no? Vabbè, non c'è problema. Comunque io la viaggio, io quando vuoi fare quel lavoro si fa una volta per sempre, ti ripeto, quelli che io non rifascio né la cornacchia né nel vento, e sono fortificati, non sono manco in vetrovesina, li ho ordinati dalla Lemma e mi erano arrivati perché volevo cambiarli, invece poi è arrivato il piantone e non li ho cambiati, mi ho comprato l'antenna nuova, quindi sono rimasti quei radiali, qualche altro ce l'ho in fibra, capito? Passato la tela pulita, sono venuti nuovi nuovi. Ok, e allora Marco, ti sei messo a posto? Sì, mi è venuto il gatto in grembo. Adesso chiedo schiavo da più, me. Il gatto è così. Volevo sentire il calore umano. Comunque sì, sapevo già ne aveva messi pieni per le cornacchie. Le ho viste poggiate anche da me, mille cornacchie. Ho detto, va, addio, mi, adesso come parte mi sfascia il radiale. Invece non si è sfasciato perché il sistema di fissaggio è diverso da quello di Gianni. Lì ha una vite passante con un foro, così è detto. Invece da me viene pressato il radiale tra due piastre, capito? Viene fissato con viti tra due piastre, ma la vite non è passante sul radiale, capito? Solo sulla piastra. E la bocca, sono viti bloccati qua. Ma che la mia in origine era così, poi il volume passante l'abbiamo messo perché gli ho cambiato i radiali e l'abbiamo sparato, quindi abbiamo fatto una modificata. Ma Gianni, ma sei attaccato? Non è limpida la voce come al solito? Cosa è successo? No, forse Gianni era con linea retto, perché non era limpida come al solito la radio, capito? No, come sono accorto io? E quindi quanti radiali ha la tua già? Non mi ricordo se è la Turbo o se è la Mantova. Quanti ne ha? 8? 5 ne ha. Ah, quindi la tua è la Mantova 5, così si chiamava. Non mi ricordo se è la 1, la 5 e la Turbo, così è. La Mantova 5. No, io non ne ho comprato più Mantova 5. Per meglio dire, la dovevo comprare, poi invece è capitato che quando ho chiamato a Mantova lì c'avevano una Mantova 1, ma guarda, abbiamo una Mantova 1 che c'è rimasta chiamata sulla, me la mandi immediatamente. Me la mandi immediatamente, infatti me la mandi con Bartolini, Mantova 1, capite? Mantova 1, Bartolo la Diaros. Bene, perché se la Mantova 1 è buono, eh. Erano le migliori, la 1 e la 5 erano le migliori, invece. Poi la Turbo invece secondo me è la migliore di più. Il Turbo non la prenderà mai più, è durata un anno, ma si è arrugginito tutto sotto la piastra, sono caduti tutti i radiali, poi l'avevo tutta rifatta a nuovo, tolta la piastra, infatti ho comprato l'alluminio, stessa dimensione, da coso, da carboni, con i tappini suoi originali, cioè quelli che si chiude, eccetera, rimessi tutti nuovi, viti tutti nuovi in acciaio, la piastra tutta ripulita, addirittura l'avevo anche dato il grasso sotto e sopra, tutta arrugginita, si è tutta, fame tutta a terra, arrivato ai tappeti, il coso, il piantone verticale praticamente radiante, l'avevo dato a Fabrizio e si è fatto farsi una verticale, e avevo tutta giù la mano giù, non è montato più, ho comprato la Mantova 1. Ma Mantova 5 non è fatto turbo, Mantova 1 è fatto turbo, è già buono. Mantova turbo è buona come radiale centrale. I radiali, il sistema dei radiali è una grandissima stronzata. Con la piastra, contro piastra, queste vitine, non serve a nulla. Non serve a niente. Guarda, io ti ripeto, la Mantova 1, la Mantova 5 a me mi è durata 20 anni sul tetto. 20 anni, capito? 20 anni. Infatti l'avevo lasciata quando sono andato via a Pascoli, è rimasta la Mantova attaccata qua. Quando poi sono tornato, siccome era già vecchia, avevo deciso di cambiarla, l'ho messa nuova, ho messo la Mantova 1. Ma, assolutamente, le migliori sono sempre quelle, la 1 e la 5. Poi vedi anche Marco, ha messo quella lì, sta durata, secondo la media. Però se la chiamo messo Marco, sta andando bene, però. Sì, è messa bassa, non ha radiali, è sottile, c'è da dire che è molto sottile rispetto alle Mantova, quindi offre una resistenza molto minore al vento. E cosa volevo dire? Guarda che Antonello Di Ossi, siccome non voleva la turbo, perché le ultime turbo sono più scadenti delle primissime turbo, ha preso un'antennona della Sirio grossa, di cui non ricordo il nome, perché la Sirio fa molti modelli. Era la Sirio, non me lo ricordo, comunque è la grossa, e non è quella con l'ampioncino, con la bobina, con l'ampioncino trasparente, non è quella, è l'altra, ed è una valida alternativa alla Mantova Turbo. Ormai c'è poca scelta, mi dico già. C'è la prima che costa una porca di soldi, cui non vale quello che costa, secondo me, perché il valore di quella cosa non ce l'ha. Ma comunque, adesso io qua preferisco buttarla giù e ripristinare quella, perché a me non so che fa bene. Ci può anche rimanere chi vi dà la terra a ginare, cioè, ma lascia perdere, non lascia in piani bassi la rimasta. Guarda, ti ho detto, quando vuoi, una giornata di tempo bello, una domenica mattina, magari ti dico il turno che ho, ok, ma però ci deve essere bella giornata, non ci sia vento, bene, tranquillo, saliamo, la abbassiamo e si rimette tutto a posto, capito? Radiali sui originali, se il foro è diverso, vediamo se si può rimodificare, fare qualcosa, ma penso che i radiali che ho io sono giusti in quel foro. Perché sicuramente i radiali che hai messo tu sono o da 4 o da 6. Non sono capace che, non so, io ho fatto il trucco più largo, capito? Per metterci il bullone passante, si può fare il buco nel collo. Il buco del radiale e fargli mettere il bullone passante anche il radiale. Vogliono messi col trappo una corona, capito? È fatto il foro. Fatto solo e messi, non è un problema quello, capito? Shui, e tu non hai più problemi perché l'antenna è a posto, il sistema radiale che va risistemato, capito? Cioè, devi cambiare l'antenna nuova, bella pulita, io mi adesso se fa bella giornata la prossima settimana, la basso la mia la corico con una bella passata all'acciaio, bella pulita, tolgo il TL, lo ingrasso di nuovo, lo pulisco, lo rimetto il grasso nuovo, capito? Ora rimetto a posto, è perfetta, rimane sempre lucida, perfetta, via qua ha tirato forte il vento, via qua è qui di fianco, io non ho ancora tiranti, non c'ho niente, c'ho un tubo di acqua da 4 metri praticamente, 2, 1 e mezzo sono attaccati al muro e escono 2 metri e mezzo, capito? 2 metri e mezzo di tubo d'acqua. Senza affatto, senza tiranti, da un pollice e mezzo, andiamo dall'antenna, non andare a lungo. Sì, per me ti ha fatto comprare un tubo nuovo, un po' qua, perché adesso c'è quasi 15 anni l'antenna sopra l'antenna. Beh, abbiamo infatti io tu Natalino, tu un'altra persona che non faccio il nome. Bei tempi quelli, bei tempi, poche carogne c'era in circolazione. Attenzione Antonello Barracuda, Antonello Barracuda, sei all'ascolto. Pigliale il culo. Che lo fa come me, diciamo sera come se si ricone all'interno, prima di abitare, che abbiamo fatto la cosa, la guarnizione. E se tu questo ci dico altro, non bisognerebbe cambiare. Cosa va? Dove si attaccano le danni, tu si tira, per la cancellarina, tira, ti vesti nuovi, ma quelli che ci sono a muro non c'è bisogno di cambiare. Si staccano dalla cravatta lì. E si riagganciano bene, mettono, ma con la cravatta basta dare una pulita, una passata di zinco, una bomboletta di zinco, se le piazza già dice ferro, il vaso in onda, però un po' di manutenzione, capite? Il tubo se vuole cambiare si cambia, le staffe già sono buone e si rimette in sesto. Bisogna aspettare il tempo bello, perché marzo ancora è così, vediamo a aprile come si presenta, una domenica ci organizziamo, capito? Siamo anche a Natalino e si mette a posto l'antenna, a posto ce l'hai a posto, e bisogna dare una sistematina di radiali, ma pulita, capito? Se vuoi ti organizzi e ti cambi il cavo, ti metti il cavo nuovo, anche se vuoi rimettere il 58, però siccome c'è tanti anni, lo ricompri nuovo, si fanno i PL nuovi, si mette il cavo nuovo e se ne approfitta. Il cavo ce l'ho già, è solo da sbrogliare, perché se tutti imbrogliati come lo sono andata, si imbrogliano, è solo da sbrogliare. C'è anche il piede attaccato, l'hanno già proprio per attaccare. E cosa c'ha Salvatore? No, vabbè, sei 9,5 qua, io sono distante da te, arrivi molto meglio di prima. Ho detto, ma cosa c'ha l'antenna? Spezzata, no? Quanto pigiata? si muove a radiare, sono talmente grossi della direttiva, no? Assolutamente. Mai subito nessun danno, sto toccando le palle, non si sa mai. La Mantova non c'è problema, la Mantova c'è un tubo d'acqua da 4 metri, un metro e mezzo che ha fatto un muro, il resto senza neanche tiranti, no? La Mantova è Mantova, no? Non c'è Cristo, verticali e niente, la monobanda dei 10, niente, le direttive VEU, niente, no, no, io gli impianti sono non ho subito nessun danno, né con la maestrale, né con questo greccare che ha soffiato parecchio. E poi era raffiche improvvise, non era continuo, quello che ti frega. Quella è la forza del vento, capito? Perché quando il vento è costante, l'antenna rimane poi col sistema che c'è, io parlo delle direttive verticali, non so, ma la direttiva quando c'è il cuscinetto di spinta che è bloccata, non subisce danni se il vento è costante, ma quando è a raffiche, e tira, il colpo che dà è lì che fa danno, capito? È lì che fa danno, sgrana tutto quanto c'è, è un casino. E l'ottave c'è il salvatore come il mio, 4,50. Sì, uguale al mio, G455, sì. È un bel blocco, tiene molto bene. Tieni conto che io non ho traliccio, quindi ho il sistema che mi ha passato Fabrizio, molto molto molto tosto, perché c'è una gabbia fenomenale, c'è una serie, ma c'è soprattutto un cuscinetto leggispizza che è una favola. Poi tieni conto che non ho traliccio nel palazzo, quindi ci sono 6 metri di sistema che tra l'altro non è neanche sollevato al massimo, ma c'è un piantone che è una favola con delle staffe fenomenali, tutto quello che aveva Fabrizio, il primo che aveva lui, capito? Quindi va molto bene, poi è piazzato in maniera ben messa. Ultimamente ho tolto il bicon perché mi ero stufato di salire e pesare i tornichetti. Ogni volta c'era vento, dopo 2-3 giorni salivo e il bicon era molto mollato. Poi mi sono rotto le scatole, avevo deciso di toglierlo e mettere il nylon con i tornichetti, quello più grosso, e invece mi hanno regalato 4 fasce di quelli da telone di camion, quelle a cricchetto, quelle con i ganci. Mi ho agganciato 4, ma tu devi vedere com'è tesa. L'altro giorno sono salito, il giorno e mezzo, il giorno dopo erano perfetti. Stamattina sono salito prima che iniziasse a piovere e praticamente niente, neanche il maestrale, il greccale gli ha fatto niente. Sono delle fasce da camion, quelle che vanno a cricchetto, non so se le conosci, sono larghe, oltre dita, ben toste. E praticamente c'erano perché li ho pesate tutte e 4, ma altro che bike, Thank you. l'ultima cosa che faccio girare per Gianni, ma quando tu accendi il controbox, perché io quando lo accendo l'overlap non rimane inserito, c'è la lucetta rossa è sempre spenta, e tu vedi adesso c'è la lancetta a 0 gradi, a nord è proprio 0 gradi, e quando l'accendo rimane lì ferma, fissa, capito, fissa. Quando tu accendi il controbox, l'overlap ti rimane acceso. Rispetto alle prime, capito? Più vanno e più peggiorano il materiale. Ma questo è mandato a turbo e quindi ha voluto un'altra antenna diversa dalla turbo, dai. Prima c'era molta più scelta, Firenze 2, c'era Sigma, Sirio, Sirtel, non so nemmeno se esistono più ancora. E quindi ho optato per questa Sirio. Guarda, è che c'ho il gatto sopra, mezzo drumito, se no avrei preso il tablet e vi avrei detto il modello dell'antenna, K. Qual è quello che scappa? Sì, no, aspetta che c'ho il microfono. Sì, questa è la gatta che era caduta dalla finestra, non scappata, caduta. È caduta in Europa. Sì, non è che ha saltato lì, magari ha saltato anche qualche maschietto. Vai gira a Natalino già. È dormito Natalino, sei dormito. No, sai perché sappiamo che è caduta già, perché c'era la corbula dove lei dorme, che era caduta giù, quindi lì sicuramente si è un po' girata, no? Sai quando si struscia o quando si stira o non lo so, è caduta assieme alla corbula, capito? No, lei non salta assolutamente, tuttora sta tutto spesso durante il giorno alla finestra, ma non salta, è proprio caduta. E le è capitato anche altre volte di cadere, soprattutto quando mamma le batteva il sedere, no? Che lei era tutta estasiata e ha rischiato di cadere, capito? Perché noi mettiamo sulla finestra un coso morbido, tutto forellato, no? Insomma, se non stai attenta puoi scivolare e cadere giù, il gatto, non la persona. Mi sa che la gatta va in valida. Cioè, di queste se il legnino, diciamo così, o curvola, come la chiami tu, sulla parte della finestra. Sì, mamma lo metto ogni tanto perché gli piace andare lì, io non l'avrei messo, sono le fissazioni di mamma. Infatti adesso l'ha levata, non so se la rimetterà, ma pure per non far cadere il corbulo e il gatto dentro, mettere un peso bello, bello teccio. Vabbè capita, dai. Invece la puffa, quella più cicciotta, i primissimi tempi che l'abbiamo presa, è proprio scappata dalla finestra per tornare nel suo giardino, capito? E poi, come l'abbiamo cercata, la padrona ha deciso di darcela perché aveva i figli di questa gatta. Ne aveva tanti in questo giardino, dice che quella lì la potevamo tenere, la Puffami, che in realtà si chiamava Viola di nome. E poi, no, Flo è stata la prima di Porto Torres, Flo, e poi ci siamo presi la Puffa. No, proprio una padrona, già avete staccata. Non ho capito già. Ho detto, ho preso una padrona quella. Sì, però sai cosa faceva lì? Dal giardinetto che c'è in via Le Mameli, veniva a mangiare ogni tanto da noi. Veniva a miagolare e mangiava, e quindi mamma credeva fosse una gatta di strada, no? E l'ha presa, e la prima volta è saltata, no? Una delle prime volte. E Mesia l'ha trovata in via Le Mameli. E sì, aveva una padrona per modo di dire, perché le lasciava libere nel giardinetto e libere di uscire, no? Siccome ne aveva tanti di gatti, forse aveva anche i figli di questa gatta, ha detto sì signora, la può tenere, se la prenda, tanto io ne ho tanti qua che girano nel giardino, capito? Ma lasciate così i gatti, si fanno le malattie, mettiamoci spusi, tutti i gatti così, ma siamo qui a Porto Torres, non so se sei mai andato dove ci sono le spugne del fuoco, eccetera, eccetera. Ci sono praticamente, c'è un gatto, è un gatto, perché il gatto è pieno di gatti, c'è delle luci, vanno, sono gatti mai perché vanno sempre sulle luci e quando vedono gente si avvicinano alle mani per farli da mangiare. E ci sono quelli della vita che vanno a portarli da mangiare. Eia, anche dietro il nautico, in alto, in quella via, sono tutti un po' malattici, hanno la clamidia, così mi pare si chiami, clamidia, che li prende agli occhi, no? Invece che Flo, pur essendo di quella zona, era un gatto di casa, capito? Non era, lei era sana perché, diciamo, è stata abbandonata perché era incinta e l'hanno mollata lì, capito? In Porto Torresi. E rimaneva separata dagli altri gatti perché li temeva. Ecco perché era, si faceva avvicinare da mamma, alla fine un giorno ce la siamo caricata, io proviamo, vediamo se si ambienta. È diventata nostra, si è ambientata, e, cioè si vedeva che era gatto di casa però, perché gli altri non si fanno avvicinare, invece lì si faceva attrezzare, capito? Entrava anche dentro la macchina. No, perché appunto non c'è molta gente che ama i gatti, me ne sono accorto, ma vabbè, gente che ama i gatti, io ho visto gente che c'ha 4-5 gatti in casa. Ci sarà una questione di 70 voti. Eh sì, perché quelli avranno detto, caspita, il gatto è incinta, ce la facciamo partorire, non ci abbiamo posto, non ci abbiamo. E dice, piuttosto che spendere 120 euro per farla abortire e sterilizzare, ce la abbandoniamo. Capito come la pensano molti. Invece, vabbè, noi siccome non potevamo tenere cuccioli, l'abbiamo fatta abortire e sterilizzata anche. Così quando scappa, che trova un bel maschietto, non c'è rischio che torni incinta di nuovo, capito? Vai Claudio. Sì, scusa, se c'è Salvatore. Ho detto, lo tuo rotore lo fa la rotazione da 0 a 120 gradi col l'acqua acceso. Natalino lo vuole senza radiali, gli viene più utile a lui. Tanto mezz'onda già se la cava lo stesso, mi sono 2 dB in meno, 2 dB, che sarebbe un terzo di Santiago. E tanto tu basterebbe 20 watt ed ecco che hai recuperato, anzi superato abbondantemente i 2 dB di perdita, capito? Ne guadagni 6, ne perdi 2, quindi 4 dB di guadagno c'hai. qui, poi conta che con l'antenna esterna puoi mettere anche un lineretto, se lo piloti con un watt magari ne hai già 20, non devi uscire necessariamente a manetta, basta pilotarlo con un watt e ne dà già 20. E rispetto ai 4 watt 20 sono già un Santiago in più, capito? 4x4 16, e sì, un Santiago in più, capito? Non c'è bisogno di mettere 100 né 80, bastano 20 e... caspita, è come se avessi già una direttiva quasi. Riprendi Gianni, vediamo se è rientrato Valerio, non so. Sì, a Valerio, sì, a Oh, l'ho sentito, io sono andato, l'ho sentito a Natalino, l'ho sentito anche, è arrivato anche a Porto Torres. Forse quando stavo uscendo forte, ha tirato su la potenza, ha attaccato il turbo, fischio da 9-10 stava arrivando qua, poi c'aveva l'ecco, favolosa, favolosa. Leia, sì, naturalmente Natalino, ricordati, col turbo modulatore non scendere sotto i 20 centimetri di distanza dal microfono, perché sennò chiaramente distorce. È una bella bestia quella radio lì, eh. Ok, comunque vedo che anche Lincoln se la cava, e c'è bello forte anche Lincoln, capito? Sì, sì, mi piace anche il presente, però quella là è favolosa. Va bene, dai, vado, se ci siete a dopo, ciao. Che ne sono, vai. Le 8:15 già. Cos'hai detto Natalì? No, io lo so andare, io a lui, dal no, sto andando, l'ho portato qua giù, è tutto asciutto, bello tutto asciutto, porto un attimino qua, Giardino fa la pipì, e poi l'ho fatto un po' franco, dai, già arrivo subito, ciao a tutti. Allora, ti stavo dicendo, Marco, ma quanto sono giù, arrivare? 1,30 m. Di cui 10 centimetri si infilano nelle placche sotto l'antenna per fissarli, quindi come se fossero 1,20 m, dai, 1,20 m. Sì, è la stessa antenna, solo che la bobina è a vista, c'è un tubicino trasparente, no, per far vedere la bobina, ma come se uno andasse a bagnarsi la bobina su. E la BA27L ce l'ha coperta la bobina, capito? Non a vista. Eia. Ebbene, 1,20 m non è tanto. Se non hai antenne vicine, ne ha solo 3 ne hai media radiali, solo 3. Per esempio io ho messo quell'antenna perché avevo un'antenna TV attaccata all'antenna del baracchino. E quindi se mettevo un'antenna con 4 radiali già toccava l'antenna della TV, che non era la mia, era di altre persone. Quindi l'ho presa a 3 radiali perché andava bene così, capito? Non toccava. Beh, appena messa l'antenna poi se n'è andato quello che aveva quell'antenna lì, l'hanno tolta. Io vai non ammala. Guarda, bisogna che lo veda uno che di antenne un po' ne ha sempre messe, tipo Claudio. Guardate che il tubo sia saldo, bello saldo. Anche se l'antenna oscilla il tubo deve rimanere bello fermo, più o meno, dai. Naturalmente ricordati che questa Energy 5 ottavi rende meno, un po' meno della mantova, un po' meno, è come la BA27L, capito? È un'antenna che è 5 ottavi leggera, sottile, ti permette di fare, di parlare, caspita, anche fuori città, anche Alghero, io Alghero come niente, da liscio, poi si attacca lineare non ne parliamo. Capito? Mentre la mantova pesa un bel, la mia pesa 2,5 kg, radiali e tutto, 2,5 kg, la mantova pesa 5 kg, il doppio pesa. E ma c'è una resistenza al freddo? Quello sì, però la mia di bello è che è sottile, molto, poi andando verso la punta è ancora più sottile, quindi offre meno resistenza al vento, molta meno. Cioè bisogna poi vedere appunto, per esempio non si piega al vento, perché essendo sottile il vento l'attraversa, capito? A meno superficie esposta al vento. Poi non so quale sia il compromesso, se me la vedo più grossa che si pieghi o più sottile che non si piega perché viene attraversata al vento. Capito Natalia? Se tu hai il posto per i radiali, metti la ciclotabile, guadagni un po' di più, se no mezz'onda, vieni tu, dai, vai già. Sì, Natalino deve mettere un tubo in facciata, perché sopra il tetto non si può proprio salire o ci sono tegole, bisogna agire tutto in facciata, mettere un tubo, puoi salire con la scala, poi voglio vedere anche come lo salgo l'antenna più il tubo. Che tubo mettere, prima di tutto se telescopico oppure puro tubo d'acqua, ecco, quelle cose non le so. Secondo me lo può consigliare più Claudio o anche tu che hai avuto le Mantova. Qui con la Tavia noi l'abbiamo aperto la Mantova, poi la Tavia gliela conosci, non c'è problema. La Tavia c'è la Claudio, la Tavia è la Eia. Sì, la difficoltà è che caspita, è a trovare una scala lunga, il modo di salire in facciata in alto bisogna trovare. Ci vorrebbero davvero quelle scale dell'Enel da 9 metri, ma a chi chiederle? Dove trovarle, capito? Che magari non tutti le vogliono prestare. Vabbè, si vedrà, dai. Fossato, poi la facciata non è fuori, non è in facciata sulla strada, già. La facciata di cui si parla è dentro il vicolo, quindi male che vada, non si vede verso la strada, capito? Quello che ho capito, no, non lo fai però me. Però deve essere un tubo molto lungo, perché c'è sempre da che piano, dal primo piano deve andare fino a che piano? Fino al secondo. Cioè Natalina al primo, poi c'è il secondo piano e poi c'è il bordo del terrazzo. Ma secondo me basta che sia a filo l'antenna dal bordo del terrazzo, poco più se radiali, tanto per farli uscire. Natali, scusa, come lo vorresti mettere? A filo di tetto, diciamo, o un po' più su del tetto l'antenna? Ma il problema è questo, quello che mi chiedo io, come fa a mettere la tappa finale per bloccare il tetto? Come fa? Ci vuole una scala, qualcosa per salire in alto, per fare i buchi, per mettere staffe, tassello chimico o ad espansione o tutte e due, non so. Per esempio le mie erano ad espansione, le staffe, non esisteva ancora, nel 92 il tassello chimico mi pare non se ne parlava ancora. Invece adesso esiste anche il tassello chimico che aiuta proprio a cementare il tassello. Natalie, sì, dovrebbe uscire, addirittura in teoria dovrebbe essere più alto della tele TV per non disturbare, in teoria. Alle 23:59 ieri notte, sicuramente sono in sciopero. Ma hai sentito della barba che c'è stata? saltare giù fino alla stazione. Sì, sì. Sì, l'avevo vista stamattina, pomeriggio, diciamo, dai, su internet. Claudio era all'oscuro alle 5 di sera invece, ancora non aveva vista le notizie. E dice, ma la Nuova Sardegna diceva che erano già mascherati, cioè sono scesi dal treno già mascherati, con il volto travisato, come dice la polizia, e quindi avevano già cattive intenzioni loro. Sarà, Gianni, sarà gente tutta del Sant'Elia, la crema guasta di Cagliari. E poi dice Tartaruga che avrebbe le bandiere, che è tifoso questo razzone, cioè. E ci hanno i gusti di questa Tartaruga, speriamo non l'abbiano attaccata. Ma dicevano mezzo demolito la stazione, poi hanno fatto danno anche a macchine, insomma quello che trovavano sfasciavano. Poi bisogna vedere di persona cosa è successo. E comunque a brutto c'era un video, sentivano quelli a bordo. Bastardo! Tutta a brutto forte. E dice che c'erano due misere volanti della polizia all'inizio, con i poliziotti che non sapevano cosa fare. Ma io dico, quando mai tu vai a fare la questura più moderna d'Italia e poi c'hai due misere macchine di pattuglia? Ecco, invece di fare le questure futuristiche, era meglio fare una questura più modesta e sbattere fuori la gente dagli uffici, mandare fuori la gente che è in questura, negli uffici, a calci in culo, fuori nelle volanti, capito? Cioè hanno due volanti fuori, poi negli uffici è pieno di gente, mandateli fuori, mandateli in strada, mandateli sulle volanti. Grazie alla questura più hanno fatto un'opera faraonica e poi non hanno pattuglia, non hanno benzina. Ma quando mai si agisce così? Ma sai cos'è? Che non erano pronti al vento, e ci volevano mettere i collassati, eccetera, eccetera. Quelli della Cesare San Marco, eccetera, quelli che c'erano tutti le grate, e ci vogliono i cannonini quando c'erano queste cose, quelli che sparano là. E questa cosa è questa, questa volta c'era la battaglione San Marco, la Cesare. Eia. Ma sempre poche volanti abbiamo. Ci vuole più gente sulla strada e meno negli uffici. Quello l'hanno sempre detto. I soldi potevano essere investiti meglio. No, hanno fatto una questura a cazzo da base spaziale e poi non hanno benzina quasi. O non hanno stipendi da pagare per i poliziotti in più, capito? Boh. Stava a fare una questura meno figa, capito? Meno coso, più modesta e mettere gente in strada, vabbè. E poi non ho saputo altro però, perché la Nuova si è fermata a quella notizia, non ho dato altre informazioni. Non si sa se la partita c'è stata o no, ma qualcuno ha detto pare di no, dice li hanno rispediti a casa. Cioè hanno fatto danno e li hanno rispediti a casa così. Non lo so, non lo so. Non so niente. Domani si leggerà qualcosa di più. A te ci saluta, solo la partita ce l'avevamo a fare alle 3:30 col socio. Non hanno fatto la partita, li hanno rispediti per evitare altri casini, se no cosa succedeva? Che la stessa di se stava facendo la voce stava facendo tutti alla stazione, stava facendo un mezzo casino. Ma questi ultra, visto che la partita è stata annullata, che fine hanno fatto? Cioè se ne saranno tornati comodamente a casa in treno, dovevano per esempio bloccarli al treno prima di tornarsene e denunciarli tutti, portarli in questura. Magari quelli sono venuti, hanno sfasciato tutto e se ne sono tornati comodamente a Cagliari, capito? Non so quello, non... Poi Giolani dice anche palle, già ci siamo capiti, la Nuova è anche molto ballista come giornale, tende a ingrandire le cose o a non raccontare fedelmente i fatti. Ma diciamo che è una cosa inaspettata, anche se erano cose che erano già successe, perché io mi ricordo una volta che avevo giocato alla Torre e praticamente erano attaccati il pullman, hanno spaccato i vetri, sono partiti in pullman, scortati dalla polizia, c'era realtà li stavano attaccando. Comunque qua si cagano per nulla, dai. Molto ci vuole mettere un po' di ricorsi poliziotti con le pallottole di gomma. Pallottole di gomma. Fucile a pompa con le pallottole di gomma. Capito? Fa malissimo. Ma non entra, si fa un livido, cazzo, un ematoma, ma non entra. E invece di fargli sfasciare tutto. Ma sta anche un poliziotto solo, come vede, esercitati, pum, come fanno in Sudafrica, capito? E sono non letali, proiettili non letali, almeno che non ti becchi in faccia, all'occhio. Basta sparare a culo o al torso, insomma, al busto, dai. Ma esistono tante cose, esistono i drammi, esistono quei voci, insomma ce ne sono stati di metodi per allontanarlo, però diciamo che ci sono trovati bruttissimi al momento, non erano brutti, ecco. Probabilmente non c'era stato personale di tutto per queste cose, esatto che c'è, c'era il servizio. Vabbè, però sempre impreparati si fanno cogliere. Ogni volta che c'è qualcosa, una partita, si fanno beccare sempre impreparati. Per carità. Poi vedremo cosa ne uscirà da questa riunione di capi di Stato che c'è a Roma. Che c'è mezza Roma blindata e già stavano arrivando con i pullman quelli dei centri sociali, quelli di sinistra che non fanno un cazzo, che vanno solo a fare casino alle manifestazioni. Vediamo cosa ne esce anche lì. Quindi buona la destra, lui c'è tutti i pullman di là, ma come si ho detto, sono tutti russi, sono uguali, quando c'hanno i soldi in mano, rubano tutti, parlano di bambine, eccetera, eccetera. Io non ho fiducia per nessuno. Uguale. Non pensano alla gente che rapidamente non ce la fa, si prendono tutti i mega galati, pensioni mega galati, che fanno un mese di cose di Parlamento e gli danno una pensione cazzo allucinante, ma stiamo scherzando. E noi che ci facciamo il matto, alla vita prendiamo una pensione misera che non sappiamo a cacampare. Beh, quello sì. E poi comunque, come picchiano quelli di destra, picchiano anche quelli di sinistra. Vedi che ogni manifestazione ci sono questi dell'estrema sinistra dei centri sociali, no? Che vanno lì incappucciati, vestiti tutti di nero. Hai notato? Tipo i Black Bloc, i No Global, i No Tutto. Sono No Global, No Tav, No Euro, no. Sono contro tutto, non so cosa cazzo vogliono questi, scusate il termine. E sono i primi sempre a sfasciare tutto, a mettere fuoco a macchine, a spaccare vetrine di banche. Loro ce l'hanno con tutti, con l'umanità, con tutto, con la ricchezza, con la povertà, con tutti ce l'hanno. Perché come sfasciano la vetrina della banca, bruciano anche le auto dei poveracci che hanno parcheggiato lì, no? La polizia però sempre becca sempre il corteo. Non si capisce questo meccanismo. I violenti non li beccano mai, beccano sempre il corteo, la fascia di corteo pacifista, capito? Caricano, menano, le massacrano di botte e le arrestano qualcuno. E quelli vestiti in nero, che sono sempre i Black Bloc, la fascia più estrema, non li beccano mai, capito? Perché quelli si danno a gambe. Non lo so, poi spesso c'erano infiltrati della polizia in questi Black Bloc, o come si chiamano, capito? Lasciamo perdere, tutta una cionfla anche lì. È una sorta di autonomia operaia, come c'era prima, dai. Prima si chiamavano autonomi e cioè erano quelli che ce l'avevano contro i fascisti, ce l'avevano contro i fascisti, contro quello, contro l'altro. Eccomi, io portalo. Dai, a non ridere, dai, scendiamo la gara. Statemi bene. A domani. A domani. Ciao. Ciao, io lo cambio. Mi sto salendo, però. Adesso lo asciugo. asciugo perché se ne andava per l'erba, è tutto bagnato. Va bene. Stavo ascoltando l'intervista di questo deficiente di sindaco di Sassari che abbiamo, no? Perché è un deficiente, non è un sindaco. Ha detto Marco che lui era estraneo, capito? Quasi quasi non sapeva neanche che il Cagliari dovesse giocare col Sorso. E che l'arrivo era a Sassari, capito? La razza di sindaco lui aveva. Ma a me non mi è mai piaciuto da lì. Sarà. Mi piaceva bene. A me mi fate già di chifo, a vederlo in faccia. A me era molto più ganato. A me già sta sulle balle perché non si può sparare a Capodanno nemmeno. E io mi vado a sparare la stessa come fanno tutti. E infatti l'ho fatto. Dicevo già che ci sono molti infiltrati in quelli, tutti mascherati in nero, a far casino, infiltrati della polizia, capito? In modo da indurre poi, cioè la polizia poi col corteo pacifico cerca lo scontro, lo sai, siccome sono incattiviti da quelli che hanno fatto casino, cercano lo scontro col corteo pacifista e poi attaccano, capito? Cercano il pretesto per caricare il corteo pacifico, l'ho visto molte, troppe volte l'ho visto. Va bene, buona andata, dai. Poi Claudio, stavamo parlando di politica. È tutto un casino, ho detto come picchiano quelli di destra, picchiano anche quelli di sinistra, capito? Questi no tutto, no global, no TAV, no euro, no. No tutto, capito? Non vogliono nulla, vogliono tornare al Medioevo. Stanno con i ricchi come con i poveri. Sono tutti no quelli, no tocche, cioè. Capito? Vabbè, no, io di politica non parlo neanche. Io nel mio piccolo ho fatto politica in circoscrizione, quando era sindaco. Come si chiama più quindi non mi interessa più, ho visto cose allucinanti, è vero la circoscrizione, posso vedere la circoscrizione, quindi non c'è andare nei campus, perciò non voglio manco parlare più di politica perché è diventata veramente una vergogna. Ehi Gianni, hai parlato sotto? Avete ripreso in due? No, è andato, allora è già andato, dai. No, perché ci sono questi di sinistra dei centri sociali, non vogliono nulla, non vogliono la TAV, non vogliono il corteo, no G8, no Expo di Milano, non vogliono niente, non si sa nemmeno cosa vogliono, si sa quello che non vogliono, non vogliono nulla, però quello che vogliono non lo sanno nemmeno loro. Per carità, se andassero a lavorare invece, detto da me poi, però io non vado a fare casino in giro, a spaccare vetrine, a bruciare macchine, capito? Marco, adesso io qua ti devo dire una cosa, da poco è successo, quelli di Casa Pano, che sono di destra, hanno attaccato degli indipendentisti che erano a fare una cena, quando sono usciti dalla sede, li hanno attaccati a Stranghi di Ferro, eccetera, eccetera, quindi... Già lo so. Ehi, infatti anche quelli sono gente pericolosa, gente organizzata per picchiare, capito? Altro che gruppo politico. Per carità. Va bene, riprendi Claudio. Io ce l'ho sotto casa, ciao. Non ce l'hai sotto casa. Allora quando passi li saluti col pugno chiuso. Compagni, così ti codini. A me, dico la verità, fino adesso non mi ha mai picchiato nessuno. Quando mi sono attaccato ho sempre vinto io, per il momento, poi, se non è che mi attaccano di qua. Ma loro sono vigliacchi, capito? Quelli attaccano in gruppo. Anche quelli sinistri lo fanno, quando trovano il destroide solo, lo menano in tanti. Così quando i destroidi trovano il destroide da solo, lo menano in tanti, capito? Sono vigliacchi tutte e due le parti. Destroide? Quelle sono linee estreme della politica, non sono partecipanti politici, sono delle linee estreme che fanno solo gagine e basta. Comunque, ce l'ho sotto casa, Claudio, sì, è esattamente vicino. dorsale, ci sono, all'inizio della via, dalla parte dorsale. Ah, mi pare che qualcuno l'avevo visto, vestito un po' in modo particolare. No, vestiti normali, c'è la sede Casa Pound, capito? Che hanno quel simbolo della tartaruga, un guscio di tartaruga sfaccettato o colorato, roba del genere. Se tu non fai rispondere a Gianni, io l'ho visto appunto con una maglietta di quel tipo di percolo petto, vestito un po' in un modo particolare. Queste magliette qui. Stavo facendo, per far sapere interessati, parlano del quartiere, eccetera, eccetera. Però sotto c'è gente violenta, si sa, perché quello che hanno fatto l'hanno riconosciuto, che sono qui, non è che l'ho detto io, l'hanno detto chi li ha riconosciuti, che sono di casa fa. Ma riuscì, dai, lasciali qua. Va bene, va bene. Oh, mi canta, la politica non è paga molto, non mi piace parlare. Anche perché non se ne può parlare, basta dire le cose giuste, è essenziale, appunto. Basta non criticare i politici, che rimpari a un raio e vecchi anni molti litigati. Eia. E belli erano, se proprio vogliamo parlare di destra, belli erano i tempi di Almirante, quando veniva a parlare in Piazza Italia, lì alla provincia, che c'era tutto il cordone dei poliziotti intorno a fare quadrato. Quelli erano personaggi più di spicco, no? Casa Pound, Almirante, Berlinguer, capito? La destra, la sinistra. Adesso esistono partitucoli che non si sa da che parte stanno, l'importante è magnare, capito? Ci è andato via, Gianni ci è andato, è Natalino dove? Ecco, mitico Natale, cosa ci vendi? Ho sentito che stava per mangiare lui. Oh. E allora? Siamo solo noi. Siamo solo noi, siamo solo noi, di ultra siamo solo noi. Questi chiamano chi si hanno fatto vedere? Ultra nos, ultra boss. Ma questi di Cagliari? Sì, boh. Come chiamarli? Gli ultras del Cagliari, boh. Non so se abbiano un nome particolare. Una volta della Torres esistevano gli Indians Torres, che poi non erano ultra, erano fan della Torres, boh. Eia, uno dei fan della Torres. In questo momento praticamente il coso era noto tartaruga, capito? Il capo ultra, capo India, era noto tartaruga, non mi ricordo come si chiama, che prende le bandiere lì, roba, in Corso Vittorio Emanuele, no, Natalì. Ah, io verso Corso Vittorio Emanuele Basso conosco, c'è un negozio di roba tecnica, bandiere, tutto anelli per metallari, kefia, tutta roba particolare, no? Che usano i giovani, cuffiette peruviane, sai, quelle cose lì, tutta roba etnica, comprese bandiere, roba, sì, è carino quel negozio. Lì avevo comprato per un amico la bandiera israeliana, che era, guarda, di un bianco splendente, era bianco con la croce, con la stella a sei punte celeste. Era così splendente che sembrava davvero ispirata da Dio con la bandiera, lo sai? Sì, quello è Tartaruga, si chiama il soprannome. Futruino, sì, è lui, c'è quel negozietto giù in basso all'incrocio con Corso Vico. Sì, vende di tutto, bandiere, tutta roba per il calcio, capito? Adesivi, magliette, contraffatte naturalmente. Poi fumogeni, tutto, bombe, tutto, petardi soprattutto, si fa loro adesso nel capodanno, queste cose così, tutto, fa anche la bancarella, tutto fa, ma che cazzo le segni va? Vende CD, vende tutto, davvero? Sì, è CD della Torres, capito? È dentro di Mario Piga, capito? Ho vinto Mario Piga, mamma, vince ancora questa canzone. Massimiliano. Buona a tutti. Sì. sei sparito, ma oggi quel tenente Ragnoni. No, sono sparito perché non mi andava a tenere radio, tutto qua. Sono andato a farmi due commissioni, sono appena rientrato, acceso, ho sentito, sono entrato a salutare. Bene Meda, bene Meda, molto bene, dice il mio carissimo amico Puccio, molto bene. Ma parlo, chi ci sei? Tu Marco, eh? Sì. Chi? Chi c'è? Più, ma sei fatto una vete? No, per niente. Scusate. C'è sempre nel costo, entra, esci, bleh. Bene Massimiliano, vedi com'è andata a finire? Non avevo soldi, non sono uscito, non mi posso pigliare un gelato, una platamona, un caffè, allora me ne sono rimasto a casa. Non è andata quella del fornellino, la caffettiera, no? Ma... No, cosa si può fare quando si in campeggio, quando fai una scampagnata, ma così, a flotta mona, per farsi il caffè al fornellino, ma qua per chi ti vede. E ci andiamo domani con la vecchia, la porto a pascolare lì a flotta mona. A pascolare, tutta l'acqua che c'è più erba. Ehi, vabbè, in campagna da me c'è un medica garanzo, forse vuol venire. Sì. Comunque, guarda, l'altra domenica davvero era presa d'assalto Platamona, poi qui non ci sarà un cane, c'era l'inizio della via tutta piena di macchine, il vialone che arriva alla rotonda, poi gelateria presa d'assalto, un bel di gente anche con cani, cani di tutti i tipi c'erano. Cosa hai detto? Sinceramente parlando, non è che offre molto. E poi la realtà è quella. E anche non offrendo niente Sassari, mi sa che offre ben poco anche il litorale di Sassari. Tutti gli sciocchi, diciamo, un dettaglio, vanno da viaggio. Aspetta un attimo, riprendi Massimiliano, aspetta un attimo, mi stai chiamando Anna. Positivo, positivo, non ho capito chi è l'amico, boh. Sono impastato, non si può prendere nulla. Poi faccio così, chi è? Marco, tu lo ascolti bene. Questo non andare fino a... non va, capito, non c'è nulla. Io non chiamo da questa parte. Ah, positivo, positivo. E non è un baracchino, non ti preoccupare. Pace e bene a tutti. Adesso ti chiamo padre Gianfranco. Cosa c'hai figliolo? Vuoi confessare? Se mi dovessi confessare diventeresti bianco. Ma tu sei venuto di messa? Io stavo trasmettendo la messa, 40 mila, come la guarda? Buonasera. Buonasera, Elio, ma se no, non male. Quello che ho detto io poco fa, è tutto l'impatto, sembra dentro una pettumiera. Perché questo è una tema che non è la sua. No, ma abbassa appena il microfono, vedi, abbassa appena, dai. Qualcosa del microfono, troppo alta. Ciao Gianfranco, buonasera, cosa sei in chiesa? Sento la messa. Riprendi Marco, arrivo subito, un secondo che c'ho roba da fuoco. Eia. Sì, comunque, Massimiliano, riprendo quel discorso, domenica c'era voluto alla rotonda, poi andiamo da Auchan e c'era voluto da Auchan, cioè i sassaresi domenica non fanno altro, figlio, mamma mia, o rotonda o Auchan, o tutte e due, capito? Non sanno cos'altro fare, certo non tutti, c'era una parte che non ci va, se ne andrà da altre parti. E purtroppo, saluto Gianfranco comunque, con la buonasera. Purtroppo la gente, non c'è niente a Sassari da girare, o Marco, cosa fai? Se ne vai dentro Sassari a Fagosa, tutto sarrato, non c'è nessuno, passi al corso e tutto di questi negri, cosa fai? Alla fine uno se ne va lì all'Ausal, si fa la passeggiata, ci sono dei negozietti, ci sono belle cose da vedere, belle donne da guardare, e in più oltre l'Ausal vanno lì anche a su da Carrefour, dove c'è quel bar, là, ci sono gli altri negozietti. Non c'è niente, no, Marco lì, cosa fa? Platamona, Vegeta, Grumi della banchina. Sì, quella ergastolana lì, l'hai visto? L'altro giorno glielo ho detto, ma lei non può vivere così, per la salute le fa male, con quel vento che c'è stato, quando piove, e quella è tostami, non molla, quella per toglierla da lì le dovranno fare il TSO, se no da lì non si muove. Vabbè, cosa vuoi farci? Purtroppo ognuno, quelle sono scelte di vita, capito, non si può fare altro, avanti già fa. Però non è se... Se mi piace così, anche quello è una scelta, perché non la devi rispettare. Magari è anche sanissima, ma è come cervello, a differenza di molti che sani non sono, che pensano sempre di più in giro. Ok, e io comunque c'è anche, se lo usi ogni tanto con l'attrezzo, c'è anche l'altra, c'è, così almeno non te le dimentichi. Bene, bene, buonasera a tutti. Comunque qui è la stazione Padre Fagno, la stazione Alfa Bravo, Gianfranco. Ehi, dovresti abbassare però il tutto, ma come se io parlassi così? Non è chiaro, amico. Senti, o parlare piano o abbassare il microfono, non lo so. No, adesso è troppo bassa. Alza un po', trovo una via di mezzo. Ehi, quella donna è... Siccome ha fatto la galera, ha detto che non vuole andare in queste case di accoglienza o come si chiamano, perché dice come essere in galera, tutto orari, a tale ora devi tornare, a tale ora si mangia, a tale ora si va a letto, e non ci vuole assolutamente. Dice che è uno scandalo che danno queste case ai romeni, capito, gliele danno, gliele affidano, o questi neri, insomma. Dice lei da lì non si muove finché non le danno una casa proprio firmata davanti a lei, capito? Finché non le intestano un appartamento non sarebbe va, capito? Ma mi sa che ne avrà da aspettare. Sì, vabbè, quella non gliela frega niente, capito? Ho scusato. Sì, ancora vivi sono quelli, ovvioi, ancora in chiaro sono quelli, bobo, gli unici rimasti sono. Eia, sì, quella vuole che si intesti un appartamento, se no da lì non se ne va, ma mi sa che non... Però è vero che, che diano casa agli zingari, è un'italiana, tanto mica uno dice, ma Galeo, ma lì ha pagato la sua pena, sì, lì la sua pena l'ha espiata, capito, ormai ha pagato il debito, è una normale cittadina quella lì. Purtroppo siamo in un paese disgraziato e quindi questo è il risultato. Vabbè, che ci deve fare? Ha scelto di stare così e così la lasciamo. Ma sta bagnando tutto il casino che hanno fatto quei cagliaritani che sono arrivati oggi lì alla stazione, per una partita di pallone, hanno fatto un casino nero, hanno spaccato bar, macchine, di tutto. Ma comunque... Non so che dire, avanti Gianfranco. Padre Gianfranco? Come? Non si capisce nulla, Elio. Se strappate è negativo. Strappa è negativo, cosa vuol dire, Elio? Io non ti ascolto per niente bene, adesso non so se la mia radio, però ti sento tutto MC60, tutto passato. No, non è la tua radio, anche qua sta strappando in negativo, cioè scende il segnale come strappa. Lappati tutto, Elio. Fermo, già così va meglio, non tocca se. Io ho un'antenna, anche se il segnale leggermente più basso, ma un pochino meglio la radio potrebbe uscire, comunque il segnale alla fine non serve, capito? La radio adesso va bene, regolata così. E io sono qua. Dove? giocando tanto. Parla bene, sono Diamantore. Passa via, io sono CB, anzi CB8. Se non voglio CB. Io sono CB, io, sempre di più. È un po' anch'io, Io sono un cieco di Londutto. E fanno potere venire oggi. Sì. Alla grande. Esce via. Va bene la carta, per il resto. Non si vede più a nulla. Sì, ma Claudia, se era stata legalizzata questa cosa qua, capito? Magari tutti avrebbero fatto meglio, secondo me. Invece, a un pezzo di bambino deve pagare. E sembra che sei più un altro degli altri, invece, non è così. No. Perfetteria. Più un altro degli altri. Oh, meglio come un bacio di tutti. Però sono all'altezza, sempre. Me la posso vantare che sono all'altezza. Quando lo voglio fare, non temo nessuno. Avanti il Marcolino. Ci sono, capito? Se ne avete parlato in due, dai. Ma ci vediamo ripeti. Ho detto, se questa patente l'avrebbero legalizzata a tutti, saremmo stati un gruppone grande. Invece niente, invece bisogna sempre mettere i puntini sulle i, tra gli amatori. Ah, io già non ne voglio. Ma guarda che stai sbagliando, ma stai sbagliando non di poco, ma di molto. Perché come tutti i titoli, tu vorresti che fosse liberalizzato, quindi per fare il medico, vai a fare il medico, per fare, che ti posso dire, l'ingegnere, vai a fare l'ingegnere. Poi quando i ponti crollano, crollano già gli ingegneri, figurati, senza fare il titolo e per studiare. Basta studiare, è aperto a tutti, basta studiare, però sono quattro cretinate, è così. Legalizzare, tutto legalizzato, e non so, non è questione italiana, è questione a livello mondiale. Sapete, gli Stati Uniti sono anche più civili di qua, anche se hanno più potenza a disposizione, tutto lì, non la chiave da legalizzare. Riprendi Elio. Facciamo come il baracchino, paghi 15 euro, no 12 euro e puoi usare anche la banda vattoriale. Oh, cambiate discorso per piacere, che a me non me ne ha fatto proprio nulla, ok? Tanto per intenderci, io dal 1993 a oggi non ho mai cambiato, il baracchino continuo a usarlo, lo userò sempre. Mentre gli altri rimangono senza. Cambio. Claudio. Dimmi. Ah, hai visto in Kenya quel tipo che aveva dato le foto di Eugenio? Cosa usa le macchine? Te l'immaginerci tu? La patente è luta. Già l'ho visto. Lo viene attaccato al furgone. Il TS50 ha preso nella cappotta. La tua patente. Ma lì è normale. E lo sai perché? No, perché non lo so. Te lo dico io, lo usano sia lì che in Australia, perché le zone sono talmente grandi ed estese, che spesso dietro ci sono montagne oppure abbastanza alte, quindi è impossibile un utilizzo normale delle bande alte, tipo VHF, eccetera. Lo utilizzano per avere un contatto con le varie basi, in Australia ci sono delle reti intere, però sono sempre autorizzati, anche se non c'hanno scritte, che sembra così, però sono autorizzati, perché in Africa mica non è scherzo, ci tagliamo la testa direttamente, capito? Non stanno lì a tanta chiedere. No, Gianfra, perché un amico è andato lì in Kenya, no? Sai, ci sono questi fuoristrada che li portano lì a fare le escursioni per vedere le giraffe, i leoni, questa cosa qua. E ha fatto una foto alla radio, no? Che ce l'aveva in poche parole attaccata sopra nella cappotta con una cinghia in pelle. Ed era un TS50. Sì, ogni volta arranca una foto, capito? E lui si arranca per tutto. E così, sono grandi distanze, non c'hanno conto, tutto lì, però se le chiedi anche proprio quello di fuori strada, che non so cosa faceva, la prima cosa, anche quelli là, come si chiamano, quegli autocarri, paesi asiatici, quelli un po' strani, per certe zone anche dell'ex Unione Sovietica. Non c'è tanto da scherzare, capito? Si prendono per via e si buttano in qualche discorso. Riprendi qua. Vabbè, è chiaro che più liberalizzazione c'è lì. Comunque, ci va bene così per noi, dai. E sono... non so cosa sarebbe successo. Comunque, io ripeto, ribadisco, come ho sempre detto, continuo a dirlo. Io la carta me l'ho presa per poter avere tutto quello che mi piace. Capito? Perché un bel passato, negli anni 90, io la butti a portare dalle scorrate. Se ne è piaciuto un viaggio, se ne è fatto la testa. E allora niente, ho deciso così, ma io non sono mai stato levantore, io ho molto per l'antenne neanche 2 anni fa, quindi poco mi interessava a me. Era giusto per ascoltare, per fare le chiacchiere, per bloccare, poi adesso dice tutto, mi tratta ancora di manco. Va bene, fate una cosa, arrangetevi, io vado a mangiare, io sono almeno 20. Ciao a tutti. Ciao Franco, Elio, Massimiliano, Marco, Natalino e chiunque fosse in ascolto. Ciao a tutti, a domani, buonanotte. Ehi, dai, riprendo io ti seguo a rotta. A rotta, no, a rotta. Buona cena a tutti, se la fate adesso, buona continuazione del QSO, io mi allontano e non riprendo più. Ciao a tutti, ciao Claudio, ciao Franco, Elio e Marco e chi fosse in ascolto. Ciao, ciao. Ciao Massimiliano, ciao Claudio, buona serata, buon tutto, dai, anch'io qua dove sono piegato a un gancio, dai, mi sto mezzo addormentando qua, mi attacco alla TV, dai, sperando che sia qualcosa di visibile. Ciao Gianfranco, ciao Elio, ci sentiamo domani, dai. Buonanotte a tutti. Vai Gianfranco. Mamma mia, che voce stanca. Buonasera, di Marco. Vai, andando direttamente, così almeno. Ti riposi. Ciao Marco, ciao. In una delle sue giornaline lì dice riposare, mi è stancato, vado a dormire, ciao, buon attacco a tutti. Ok, ciao a tutti, ciao Antonio, buona serata a tutti, anch'io